Benvenuto a tutti quanti, vi ringrazio di essere così partecipi alle nostre serate e porto il saluto dell'assessore Tomasini che è il presidente di questa biblioteca, una piccola biblioteca che da 10 anni lavora e che rimarrà qui penso ancora per 4-5 anni in questa sede provvisoria in attesa della realizzazione del polo bibliotecario. È una cosa che ripeto spesso perché ci tengo a sottolineare che questa è una sede provvisoria. È una sede provvisoria che però negli anni si è riempita di libri, quindi siamo partiti con 500 volumi, adesso ne abbiamo 80.000, 55.000 sono stati catalogati in questi 10 anni, di questi 80.000 volumi qui ne trovate 20.000, gli altri sono tutti in un magazzino a 200 metri di distanza da qui, quindi qualunque cosa serva e voi vediate o abbiate bisogno, anche consultando il nostro catalogo online da casa, è possibile prenotarlo se siete iscritti. L'iscrizione è facile da fare con un semplice formulario, è un servizio gratuito. Ecco, si può prenotare il libro e poi venire a ritirarlo qua in biblioteca, anche perché spesso abbiamo bisogno appunto di recarci nel magazzino, abbiamo bisogno di quella mezz'ora di tempo per la logistica, ecco. Per tutto il resto, la biblioteca da anni organizza questi incontri con l'autore perché siamo fermamente convinti che una biblioteca vive e fa uscire i propri libri se poi crea anche delle occasioni per incontrare, sentire dalla viva voce di chi ha scritto o pensato o avuto un'idea il contenuto, sentirlo vivo e poi si può incuriosire ed andare anche a ricercare altre informazioni. Facciamo spesso anche delle bibliografie tematiche legate agli argomenti che si trattano di volta in volta. Questa sera c'è una novità perché di solito ci occupiamo prevalentemente di storia oppure di narrativa sempre legata al territorio. Abbiamo invece questa volta una realtà che viene dal nostro territorio ma che riguarda più l'ambito sociale e sanitario. Ringrazio infatti Ildo Baiesi perché è stato il promotore di questa iniziativa. È stato il signor Baiesi che è venuto qui da noi in biblioteca, ci ha fatto vedere questo lavoro e ha fatto in modo che poi avvenisse questa presentazione. Ringrazio Marisa Anastati che è l'artefice in tutti i sensi, ecco, anche perché è l'arte terapeuta che ha avuto in mente questo progetto e l'ha realizzato. E ringrazio il dottor Gaccher, che è il direttore dell'ospedale di Brissanone e che ha dato spazio a questa iniziativa e ha fatto concretizzare questa esperienza all'interno della struttura che dirige. È un'occasione curiosa per capire come sia vivace anche il nostro territorio, le belle cose che vengono realizzate a favore del sociale, delle persone meno fortunate, ecco. E quindi vi ringrazio della vostra adesione al nostro invito. Cedo subito la parola ai nostri ospiti e vi auguro una buona serata. Con un arrivederci a lunedì prossimo che ci sarà il libro di storia di Frangipane. Buonasera a voi, al dottor Gaccher che ha creduto subito in questa iniziativa. Quando Marisa l'ha proposta anni fa e l'ha seguita e ha voluto che fosse l'iniziativa che crescesse e desse i suoi frutti. Alla signora Marisa Anastati che con tanto impegno prosegue in questa attività, io sono qui non in veste di esperto, molti altri potrebbero esserlo meglio di me. Ho la fortuna di essere amico della signora, amico di famiglia e l'abbiamo conosciuta nel suo cammino spirituale all'antroposofia, alle icone, è una pittrice di icone straordinaria, e a questa attività soprattutto nell'interesse di chi, come diceva la dottoressa Trevisan, è più sfortunato e meno fortunato e ha bisogno di aiuto. Quindi, dottore, prego, lascio a lei la parola, e intanto io attendo con questa immagine fissa prima di cominciare poi l'analisi delle immagini. Un cordiale benvenuto anche da parte mia. Con grande piacere ho accolto questo invito alla presentazione di queste opere che sono nate nell'ambito di un nostro progetto terapeutico all'ospedale di Bressanone, nel reparto psichiatrico. Noi utilizziamo l'arte terapia non solo all'ospedale, ma anche alla nostra struttura di Bad Backart, forse la conoscete, è un centro terapeutico per la cura di pazienti psicosomatici, di alcol dipendenti. Anche lì è un modulo terapeutico molto valido. Riteniamo che l'arte terapia possa manifestare il pensiero, la dinamica psichica di un paziente, i suoi conflitti, le sue emozioni, però anche la sua visione del mondo in maniera molto, molto chiara, molto plastica, forse più dell'espressione verbale. In altre parole, la creazione, il processo creativo, senz'altro rende comunicabile ciò che a voce talvolta non si riesce, non si vuole comunicare, e già in questo abbiamo un preciso e notevole effetto terapeutico. Colpisce sicuramente anche voi la forza espressiva di queste opere, e forse di più ancora mi ha colpito il progresso che si può notare dall'inizio del progetto, dove spesso si hanno emozioni molto forti, per man mano poi arrivare a espressioni caratterizzate da grande chiarezza, ordine, limpidezza. Ecco. Non mi rimane altro che ringraziare tutti quanti hanno dato il loro contributo a questo progetto, innanzitutto la nostra signora Marisa Nastati, però in egual modo al nostro aiuto dottor Prostin Hans, sì, che ha seguito molto il progetto. Ecco. Mm-hmm. Auguro a tutti voi una bella serata e grazie dell'attenzione. Difficile, non ho mai parlato per microfono. Allora, buonasera. Conosco molte persone qui, ma anche abbastanza non le conosco, e questo mi fa molto piacere, perché parlare con una persona che non si conosce è una bella sfida, di riuscire in pochi minuti a far partecipe del proprio pensiero, perché in realtà questo lavoro è proprio un grande pensiero. Io questo libro lo volevo chiamare un racconto d'amore, ma poi il dottor Brosliner ha detto no. Però in realtà, capite, mettersi in rapporto con le persone, entrare nella loro, nel loro mondo, ci vuole una delicatezza e una leggerezza tale in modo che la persona si senta capita, ma non men che meno giudicata, ma neanche invasa. Quindi non c'è nessun giudizio e nessun compito. Devi fare la rosa. Come faccio la rosa? Non so fare la rosa. E c'è una fila di obiezioni infinita. Allora, se una persona sta male, perché stiamo parlando di un'attività svolta all'interno dell'ospedale, del reparto, che si suddivide in due sottoreparti, uno più acuti e uno insomma che però se sono lì benissimo non stanno, ok? Quindi sono momenti delicati nella vita di una persona. Nessuno vuole andare in psichiatria, nessuno. Purtroppo certi mali vengono e nessuno se li va a cercare, assolutamente, questo è certo, perché la sofferenza della mente è una sofferenza molto pesante anche da portare. Purtroppo la mente non si vede, non è come quando ti sei rotta la gamba che vedi la gamba rotta, è abbastanza facile, è riconoscibile il danno, non sempre, però abbastanza riconoscibile. Un disagio nella mente è sfuggente e a sua volta tende a nascondersi. È come come se questa malattia fosse, dico una cosa, adesso non vorrei magari un po', non vorrei che nessuno si disturbasse, però è come un essere, no? È un qualcosa che ha una sua natura e che si fa fatica a prenderne consapevolezza noi stessi in modo da poterla descrivere. Questa è la grande soglia di difficoltà di questo tipo di sofferenza. Perché anche quando c'hai mal di denti, che non sei sicurissima se è il secondo o il terzo, sopra o sotto, se magari è il nervo invece il trigemino, si fa fatica a identificare dov'è la fonte del dolore, no? Spesso. Nell'anima, il dolore dell'anima poi, che non ha nessuna topografia, è ancora più difficile. Allora, il colore aiuta molto in questo senso, perché il colore, di cui tutto il mondo è formato, noi siamo esseri di colore. L'occhio, evidente. L'incarnato, evidente. Negro, giallo, bianco, marrone, rossino. E ci vediamo, no? Ma anche all'interno siamo colorati. L'osso è bianco, il sangue è rosso. Quindi siamo fatti di colore. Quindi il colore come tale può essere una strada percorribile per andare avanti a capire. Naturalmente quelli che si ammalano nell'anima, quasi il 99%, sono persone estremamente intelligenti e molto sensibili. Cioè non sono i scarsi, sono le punte di eccellenza che si ammalano. E quindi è molto difficile, anche per una persona come me, per dire, insomma, no? Per uno che gli sta vicino, raggiungerli dove sono loro, per poter capire, per poter aiutare. Io parlo come artista, io non sono medico, io parlo come artista, ci tengo moltissimo che noi si fa arte, si usa l'arte come terapia. Non sono psicologa, io non interpreto, però l'arte e il colore in particolare ha questa meraviglia delle meraviglie che è portatore di armonia. E qui devo dirla sta roba perché sennò non ci capiamo. Goethe però, 1780-90, Goethe ha colto, ha visto, ha intuito e ha coscientizzato, portando in concetti ed espresso, e quindi noi possiamo ripercorrere, che il colore nasce non dalla rifrazione della luce del prisma famoso di Newton, ma da un qualcosa di spirituale, da una lotta. Allora, quando tu cominci a pensare così, cominci a vedere il colore come qualcosa che ha una sua vita. Sempre Goethe ci ha fatto osservare che se noi fissiamo una parete bianca e ci mettiamo sopra un punto di rosso e lo osserviamo con un occhio attentamente, chiudendo l'occhio e poi togliendo il rosso e riaprendolo, tu vedi sul foglio bianco il verde, che non c'è fisicamente, il foglio è bianco, però l'occhio percepisce il verde. È un esperimento che si potrebbe fare, insomma, avendo tempo e dedicandosi un po' a questo aspetto scientifico. Cosa vuol dire se io, osservando il rosso, in realtà completo dentro di me l'immagine col verde? Vuol dire che il verde nasce dal giallo più blu. Prima elementare, le maestre qua. Allora, giallo e blu e rosso sono i tre colori fondamentali. Allora, se io ho rosso e vedo verde, vuol dire che al rosso si contrappone la somma degli altri due. Se è la somma degli altri due, vuol dire che sono sempre tre. Sono i matrimoni strani, insomma, no? Capito? Cioè, l'uomo è fatto per l'armonia. Ecco, questo è il concetto che volevo passare oggi, in questa serata, per capire questo lavoro che facciamo. l'uomo è fatto per l'armonia, non siamo sì, va bene, l'evoluzione della scimmia, mettila come vuoi, lasciamo perdere. Se osserviamo spregiudicatamente l'uomo è un essere che si fonda sull'armonia. L'armonia è quella roba che non abbiamo mai. C'è troppo caldo, c'è troppo freddo. No? C'è sempre, è difficile essere in un momento magico, diciamo, di equilibrio, quindi nell'armonia. Tendiamo a essere in una polarità. Se la polarità sta in un ambito da lì a lì, va tutto bene. Ci compensiamo sempre. Quando questa escursione diventa troppo ampia, allora cominciano i problemi. Allora, dipingendo col colore, io posso, ma non io che sono magica e te lo faccio fare a te, l'essere umano può ricreare dentro di sé l'armonia, autocorreggendosi, questo è il punto, autocorreggendosi. E quello che, grazie al dottor Gatscher che ha dato fiducia, insomma, a questa, ma però la facevano già Bachard, ma in reparto, insomma, noi abbiamo un reparto chiuso, un reparto di grande sofferenza, quindi è una insomma, quasi una sfida, insomma, no? Era abbastanza non così sicuro che funzionasse, diciamo, quell'interno, no? Invece abbiamo sperimentato, adesso andiamo su per il settimo anno, come le persone, capite, si esprimano e automaticamente, ma è brutta sta modo di dire, ma tendenzialmente proprio l'uomo è sano dentro, viene dall'armonia, può avere un momento di sbandamento, ma subito vuole tornare nell'armonia. Siamo, guardate, io sono binonna, grazie a Marco Antonio lì, ecco. Con la prima lo avevo già visto, ma col secondo sono stata ancora più attenta. Allora, un bambino appena nato, guardatelo lì, è niente, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dopo crescono così in fretta anche, ma insomma è niente, è un cicciolotto, è un... cos'è, no? Lui è pieno di qualcosa, non è pura carne. Avete un nipotino, avete un fratellino, avete un figliolino, avete qualcun vicino? Cavoli! Poi le donne soprattutto, anche gli uomini, per carità, non voglio negare che l'uomo non osservi, ma insomma le donne maggiormente, ecco, lo vedete sto bambino che gli capisci qualche cosa, pur essendo, c'ha una settimana, c'ha un mese, quando ne ha sei è già vecchio, quasi, perché lo conosci così tanto, e c'ha sei mesi, deve arrivare a 105 anni minimo, Berlusconi, vero? Sì. Ecco, allora dico che l'essere umano si manifesta pienamente fin dalla nascita, fin dall'apparire al mondo, e nel bambino appena nato tu vedi che lui obbedisce a leggi di armonia, perché ha fame, piange, sta bene, ride, perché ridi? Cosa te ne frega? Hai mangiato? Perché ridi? Noi dimentichiamo di ridere, no? C'è anche uno che ha fatto la terapia della risata, ma c'ha ragione, il sorriso è fondamentale. Allora, sempre il nostro lavoro, in questo contesto, con il colore, la persona tende, per sua natura, che ho timidamente ho cercato di spiegare, a ristabilire l'equilibrio. Gli vengono i colori brutti, gli dà fastidio, cerca di trovare, anche se è una persona distantissima, cioè abbiamo dei bellissimi muratori, Spengler, ricoverati, no? Delle persone che proprio non è la signorina che si dedica alle arti fini, no? Abbiamo degli uomini anche che sono coinvolti con una tempra, con una uomini, insomma, ecco, che mai penserebbero, no? quelli riescono a fare delle cose meravigliose e hanno un beneficio immediato e forte, proprio perché vedono questo sforzo gratuito che stanno facendo su di sé e che gli rimanda un senso di benessere. Perché tutta la questione è prendersi cura di se stessi. Certe malattie fanno, come si dice, decrescere l'autostima, ma dai, non parliamo da psicologi, ti fanno sentire poco adeguato, ti fanno sentire il mondo così pesante, non sei all'altezza e tutto pesa e quindi tu ti ritiri, più ti ritiri e più questo ti diventa pesante, bene? Allora, abdichi all'idea che tu sei re in te stesso, io dico. Fare questo sforzo sul foglio, che sembra una cosa così distante, così insignificante, in realtà muove nell'anima quelle forze, che diceva appunto il dottor Gacce, quelle forze di volontà di risanamento. Allora, questo tutto teoria, bene, allora noi guardiamo i lavori e vediamo se questo è vero. Allora, questo lavoro è andata così, sempre grazie al sostegno, avevamo formato all'interno del gruppo dei, diciamo così, meno gravi, no? All'interno di quelli si erano affacciate delle persone che dimostravano un interesse, insomma, no? Al di là del momento contingente, che piaceva, detta la veneta, scusate, ecco. E allora così ho proposto se potevano tornare, pur restando a casa, da esterni, capite? È stato fatto come una specie di Stammtisch, si può dire? Sì. Si può dire. Ecco, Stammtisch si conosce, qualcuno conosce questa parola, è bellissima, è un concetto tedesco che mi piace tanto. In una stuba, in un bar, in un Gasthof, in un posto, c'è un tavolo, no? Che è un gruppo di persone il martedì sera, il giovedì, se un giorno, una certa ora, per 2 ore si trovano lì gli amici, no? Noi non lo so se ce l'abbiamo, io non ho Stammtisch, no? Però noi in Piazza Matteotti non c'è. Però ci sono delle persone, per esempio, che si incontrano regolarmente e fanno una partitina a carte, no? Ecco. Lo Stammtisch però non è solo giocare a carte, è proprio la compagnia, bere qualcosa, raccontarsela, magari giocare a carte, insomma, questo momento di incontro. E allora, insomma, nell'ambito così si è creato questa possibilità per queste persone esterne di venire a dipingere. Hanno la ricetta, io sono fiera di questo traguardo ottenuto, che la USL offre questa terapia gratuita nell'ambito dell'ospedale, quindi osservata e monitorata. È un progresso notevole, secondo me, di eccellenza proprio, questo dà l'eccellenza. Bene, e loro vengono e dipingono. Allora, queste persone da un po' che venivano. Sai, una volta fai la primavera, poi fai l'albero in fiore, poi fai il fiorellino, e poi la lunga è dura, eh? Allora, perché erano, diventavano esigenti. Perché quando tu cominci a lavorare su di te, come ben sappiamo, ti viene voglia sempre di migliorare. E allora mi è venuto io ho sentito il bisogno, interpretando un po' i loro sguardi, perché questi non parlano, no? Non è che ti vengano a dire adesso vorrei fare una roba così, ecco, di provare a tenere l'attenzione, la concentrazione, la passione per un tempo lungo che non si esaurisse nelle 2 ore delle singole terapie di volta in volta. E allora ho preso questo, mi è venuto, non c'è nessun motivo particolare perché ho scelto questo, oltretutto non lo conoscevo neanche sto libro, solo di nome, però sapevo, sì, un po' lo conoscevo, che era capitoletti abbastanza facili, mi sembrava facile, e con delle immagini chiare, capite, dirette, fruibili. Poi noi lì siamo italiani e tedeschi, quindi la lingua che si parla è di volta in volta la maggioranza, quindi è ancora più interessante, è veramente interessante, ragazzi, perché fare della debolezza la risorsa fare della debolezza. Io non so il tedesco, so 50 parole, 52 quando è il giorno buono. Come i primi anni è stata terribile. Mi sforzavo in un modo, io leggo i libri in tedesco, ma sì, ma quelli lì dei filosofi, quindi con delle parole che nessuno ne sa nessuno, ecco. E poi le so solo leggere, non le so dire, no? E quindi dopo un po' sono andata anche un po' in crisi, insomma, effettivamente, perché vedevo che non riuscivo a comunicare, a far passare questo, un sentimento. E allora mi sono resa e ho detto, io non so il tedesco, mi aiutate? È stata una meraviglia. Io posso sempre contare su una persona che illumina, che spiega il mio concetto. Il fatto che lei si impegni a tradurre me, si chiarisce in lei il concetto che io le sto dicendo. E lo, sai, predigerito? E lo dà agli altri. Ecco, io dico, fare della debolezza una risorsa, questo è stato anche un grande obiettivo raggiunto. Bene, perché lì stiamo parlando di persone che ufficialmente sono deboli, perché sono nello stato di sofferenza, va bene? E allora, dimostrando di essere deboli, perché non bisogna sempre far vedere di avere i muscoli, si può anche ammettere di non sapere. Si aprono dei canali di disponibilità reciproca e verso se stessi soprattutto, perché lo sappiamo tutti che il peggior giudice di noi stessi siamo noi. Il tuo amico ti dice sempre, ma no, ma dai, ma sì, ma avevi mal di testa, ma quella volta. Tutti ti giustificano, ma tu dentro di te sei terribile, sei assoluto, no? Non so, io parlo per me, adesso dico così. E allora, questa debolezza è stata una risorsa, però noi abbiamo sempre usato la lingua della maggioranza delle persone che c'erano, perché abbiamo italiani e tedeschi, anche ladini, ma quelli no, quelli proprio non ce la faccio, ma i ladini sono, sono un miracolo della natura, vero? Che spallano tutto. Ah, vero, sono bravi, Ecco. E quindi, nella lingua, abbiamo due libri, una versione italiana e una versione in tedesco, e abbiamo letto, cioè concetto, vuol dire pensiero astratto, tradurlo in un'immagine, portarlo nel sentimento, trovare la forma artistica utile per rappresentare quel concetto in 6 al massimo, dopodiché osservazione fra tutti. E questo che è il capolavoro dell'essere umano, che da quando da individuo diventa umanità, diventa socialità per essere umanità, perché noi siamo un'umanità in realtà, ecco. E allora autocorrezione, ma non per copiare che te la fai bene, guarda come fa bene il rosso, fa con che mi, proprio perché quel punto di rosso che lei sa esprimere, che io non sono capace di trovare, mi fa accorgere che esiste un altro mondo che io non conosco. Questa altra possibilità è quella famosa freccia in più del primitivo, che se hai una freccia e manchi il cervo, no, il cervo è grosso, coniglio, non mangi. Se, dice sempre mio amico dottor Linfer, se hai 2 frecce facile che non mangi, se hai 3 frecce può essere che lo ciappi, capite? Bisogna avere tante frecce nel nostro per il nostro arco, perché sprecarne una? Ecco, questa del colore è una freccia seria che ci aiuta molto. Allora poi, insomma, questo lavoro ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti 6 mesi con osservazioni molto interessanti. Abbiamo visto che poi in realtà questo libro contiene riferimenti alla Genesi, contiene riferimenti alla Divina Commedia, è un libro veramente molto filosofico e molto profondo, bene, e questo l'abbiamo condiviso con le persone, bene, e dopodiché è successo che essendosi stabilizzato il gruppo e quindi tutti hanno continuato a dipingere, possiamo osservare come il colore, io insisto, il colore sia cambiato, la qualità del colore si sia sia cambiata, poi decidete voi se è meglio o peggio, dopo avere così a lungo lavorato su un tema con tanta passione e con tanto tenendolo al centro del proprio essere. Quindi il problema non è che mi go mal di testa tutti i giorni, ma il problema è come va a finire sta storia e devo portarla a casa. Capisci? Spostare il centro del proprio pensiero da un momento di sofferenza a un momento altro, possibilmente col sorriso. Da noi si ride quasi sempre, e gente che è depressa forte, ma nasce questo amore, questa, io la chiamo fratellanza perché ognuno sta molto nel suo spazio e non ci sono cose strane, ma questo amore si passa, questa qualità che è rara da trovare, perché nel nostro quotidiano siamo tutti stretti fra pagare le tasse e quant'altro, e non ci viene tanto da ridere, giusto? Normalmente abbiamo un parente, un'amica, bello questa iniziativa meravigliosa, questo poter stare assieme, ma è raro, non è di tutti i giorni, vero? Ecco, e lì in particolar modo la persona può essere se stessa credendo di stare veramente in un limite. Un po' alla volta abbiamo visto dei progressi notevoli in alcune persone, proprio dei partecipanti. Va bene, allora guardiamo. Vorrei sottolineare che questo imparare a stare insieme è cresciuto al punto tale che, se non sbaglio, avete anche fatto un'uscita di qualche giorno. Non è stato solo lo stantish di qualche minuto, non è stato qualcosa di più. Beh, quelle ne facciamo, ma non... Ma sottolinea maggiormente, significa resistere e stare vicini a lungo. Sì. No? È importante. Sì, sì, quello è proprio eccezionale. Quello che è veramente questa offerta grandiosa della struttura pubblica è proprio questa possibilità. Allora, questa qui non è una medicina, diciamo, la pillola, capito? Cioè, trovarci la valenza terapeutica in un'attività frivola, non so come volete chiamarla, così leggera, ecco, vuol dire una grande intelligenza, ma è brutto, vero? Ma una grande intelligenza proprio da terapeuta. Perché oggi siamo tutti troppo sofisticati, quelli che si ammalano, l'ho detto, sono persone notevoli, sofisticati, abituati, vai in internet, ti fai già la diagnosi da solo, no? E ti compri metadone, pitobong, e te vai in farmacia e te lo danno anche. Capite? Noi ogni epoca c'è il suo problema, adesso abbiamo il problema del troppo anche. Quindi il problema... è di tornare all'essenza, ma l'essenza certe volte ci fa paura, perché se non c'è qualcosa dentro c'è il grande vuoto, e questo grande vuoto, non c'è mai il grande vuoto, può esserci che non vedo quello che c'è e credo che ci sia nulla, e lì viene paura. Basta, partiamo con questo prologo che... Allora, che è acerbo. Che è acerbo, bravo, appunto, bravo, grazie. Questo è il primo lavoro. Allora, nella posizione in alto a sinistra c'è sempre la stessa persona che ha dipinto. Quasi sempre, perché qualche volta è andato in vacanza, perché nei 6 mesi, e allora non sempre la stessa persona, ma normalmente in alto a sinistra c'è sempre una persona, la seconda è un'altra persona, Le primi 2-3 sono sempre che ritornano, gli altri sono qui a questo progetto, hanno lavorato 34 persone, di cui 4-5 stabili, e gli altri si sono avvicendati perché erano ospiti della struttura. Ed è anche lì meraviglioso vedere come si sono inseriti in questa storia, è come dire, oggi arrivo... Ah, siamo alla rosa, bene, si dipinge la rosa. È come dire, il contenuto del momento di narrazione è come sospeso nell'aria, che uno si sente subito inserito. persone che e domani non ci sono più, hanno lavorato e se ve li, poi ve le faccio vedere, voi dite, ma dai, non è possibile che questo qui sia venuto una volta non sapendo niente. Bene? Allora, prologo, sapete la storia del piccolo principe? So vi so, anche me, poco. Però, insomma, è la storia di questo aviatore, casca l'aereo, mezzo al deserto, va in panne, non muore, neanche ferito, però l'aereo spacca. E quindi lui deve cercare di salvarsi, vuole tornare a casa, no? Si avventura, cammina in questo deserto e sente una vocina, cos'è, e dietro c'è sta vocina e è questo bimbo, questo esserino che viene chiamato piccolo principe, perché lui sul suo pianeta dice vengo da un pianeta lontano e a cercare qualcosa. Allora c'è un prologo, no? Comincia proprio con un prologo. Allora non è la descrizione pedissequa del libro, ma quello che i pazienti insomma hanno sentito come essenziale di quel momento narrativo. Quindi essenziale è stato dire che qui comincia. Non l'ho detto io, Fabrizio, hanno detto loro. Ma guarda che gente notevole. Io sono stata onorata di aver lavorato con loro, per quello che ho fatto sto lavoro, grazie alla Milena che poi mi ha fatto tutto sto ambaradan, hai capito? Perché è stata veramente un miracolino questo qui, cose che non si ripetono, boh, sì, speriamo che si ripetano, ma quando l'uomo con la sua qualità umana piena fa qualcosa di grande, boh. Bello. E essere qui, grazie a Lillo, io non so io come mai succede questa storia, io non è che faccio libri tutti i giorni, è il primo, questo messaggio di fratellanza che va, ma non per fare i cattolici, capite? Ma proprio umano, sto parlando di umanità. Va bene, allora ho deciso che iniziale era il prologo. Prologo, allora, uno, logicamente, vengo dalla stella, sono caduto, dice il piccolo principe, e allora il primo lì ti fa quella tipo falce di luna, vedete il colore? È giallo, rosso, blu, guardate il colore, è chiaramente il giallo è lì, è anche definito, limitato, delimitato, il blu è un po' mosso, il rosso è piatto e anche un po' fiappo, cioè, guarda quel capotino lì, quella roba, è rosso. Quello lì è un po' pallidino, ok? Un'altra persona ha deciso che già fa l'aereo, che è atterrato, che è rotto, vedi quello sotto? Mm-hmm. Ecco. Cioè, un'altra persona si interroga su che cosa è successo, su un disastro, il terzo in basso, sì. E poi vedete, quello in basso a destra, per esempio, di cosa ci parla? C'è una parte strutturata, una parte interna che è bu, che pulsa, che non ha forma quasi. Bene? Bene, due. Allora, poi ho chiesto per cortesia di scrivere, se avevano voglia, qualche pensiero sulla tavola, su quel tema. L'hanno scritto, non so se è da leggere, io... Però sono veramente interessanti cosa loro me l'hanno portato poi, cosa hanno scritto di pensiero che hanno fatto forse dopo quello della pecora, mi piace, va bene, lo vediamo. Anche della volpe. La volpe, sì. Ecco, allora poi c'è questo fatto che succede che lui sente sta voce. Allora, non è più mai stato dipinto il piccolo principe, ma i sentimenti che ci sono dentro... Le persone hanno scelto come modalità espressiva che gli sembrava essenziale dire che questo si è stupito, staviatore, e quindi lo stupore, no? Allora, uno lo esprime in quel modo, quella specie di urlo di Munch. Questo, no? Un altro è più, ma chissà, vero? Una cosa blanda. Un altro c'è questa maschera. Una maschera, quindi un nascondimento. Mi metto la maschera, voglio vedere se non mi riconosci, finché non parlo, poi la voce magari mi tradisce. Quindi sta dicendo, no? Capite cosa viene detto? Ecco. Poi c'è quest'altro che fa questa linea di traverso così che interrompe. Interrompe proprio, no? Allora, c'è una frattura. Una frattura. Uno è di qua, uno è di là. C'è un'unità interrotta. Allora, se l'essenza dell'uomo è l'armonia, una situazione del genere farà male. Probabilmente. Non è definitiva. Probabilmente, però sì. Bene? E questi sono altri momenti, insomma, no? Allora, quando poi noi si dipinge, alla fine si prende in mano il lavoro, io lo prendo in mano e tutti guardano il lavoro, il tuo, in silenzio, nessun giudizio, tutti guardano e tutti elaborano quell'aspetto. Allora, siamo qua, 6 persone intorno al tavolo e 6 fanno 6 cose totalmente diverse, vedete? Allora, questo, uno è rispetto, due è libertà, e poi alla fine ognuno guarda, e siccome si è creata amicizia chiaramente fra le persone, e io l'ho fatto notare questo fatto, è un dono che ognuno fa agli altri di un aspetto della propria anima, perché quello che vedi te io non l'avevo visto, e allora grazie. Perché ho un'altra freccia, non ce l'ho, però so come potrebbe essere fatta un'altra freccia e magari la prossima volta potrei usare quella modalità che hai usato quello là. Avanti. Allora, il piccolo principe è definito dalle sue domande, del tiny prince un tiny frame. Il piccolo principe, non, noi si dice la sciarpina, il capello biondo, la braghetta, perché lui l'ha disegnato così l'autore, ma se voi leggete il testo non è mai descritto. Dice che piccolo, quello sì, che ha una vocina, quello sì, ma non è mai descritto, no? Però continua a fare domande. Questo è un bambino di quelli, sapete quelli lì? Ma perché quelli che un po' rompono, insomma, no? Ecco, ed è definito dalle sue domande. Questo qui in basso invece fa il piccolo principe, no? Cioè fa questo bambino, questo è. Questa è una persona che era venuto solo quella volta, mai più tornato, e l'unico che l'ha fatto, che è entrato in questo mondo di pensiero e ha sviluppato quell'immagine. Ma guarda quella bocca lì col punto di domanda, con quella pseudo sigaretta, so io che cos'è, quanto è interessante, quanto è essenziale. Cioè io se mi metto, non ci riesco, mi metto a fare una roba originale, no? Perché fare cose normali, ma ecco. Bene, e questo cappello piumato, perché lui è un po' anche vanitoso, no? Perché si vanta, perché lui è un principe. Bene. La pecora. Allora, praticamente il piccolo principe gli chiede: disegnami una pecora. E lui si mette. Ma guarda che io sapevo solo disegnare il boa dentro il cappello dentro il boa, no? Sai? E non sono capace di fare pecore. E la fa magra, e la fa grassa, e la fa vecchia, e la fa malata, fin si stufa e disegna una scatola e gli dice: lì dentro c'è la pecora. E lui dice sì, è vero, si porta via la sua scatoletta, il suo disegno di scatoletta. Detto questo, queste 4 persone, che non sono quello là non è, quella pecora lì non è della persona di prima, è un gruppetto a parte, fanno queste 4 pecore. Una c'ha i corni, un po' diaboletta, e codina. Un'altra c'ha i dentoni. Un'altra è così evanescente che neanche quasi si vede, cioè si vede, e qui è un po' non si vede. Insomma, c'ha 3 gambe anche quella là, eh. Pur tuttavia, vuoi dirmi che non è una pecora? Forse maialino, dal colore. Ma pur tuttavia, io la riconosco. La coda è da pecora, esatto. Allora, capite io dentro di me ho un'immagine, magari non perfettamente corrispondente a quello che i miei occhi vedono, pur tuttavia l'immagine che ho dentro di me è piena e corretta. Si tratta di farla capire anche a te, la mia immagine, che siccome tu hai la giusta, corretta immagine, diciamo standard, ecco, fai fatica a capire me e io faccio fatica a capire te. E qui nasce tutta la problematica dei rapporti umani. Quando non ci si capisce, nessuno mi capisce. Già sentita questa? Capisci? Se uno la pegola la vede così, come fa a spiegarsi? E come fai a capirlo? Quando tu vedi che uno fa una cosa del genere, allora capisci. Allora gli vai incontro con altre parole. E la vedi nella scatola. E la vedi nella scatola, bravo. Bene. Allora, lì poi c'è che allora dice, e l'amico, parla dell'amico, dell'amicizia, di un valore positivo, no? Allora, il tesoro, l'amore è come agape, no? L'amorosità, non so come dirla, ecco, l'amico. Allora, guarda, uno, un idealista in alto, solitario. Questo è un musicista, bravo musicista, riconosciuto bravo musicista. Bene. Un altro, quel tourbillon, c'è quasi un occhio, vero? È un occhio che ti osserva, cosa dirà? Ma un altro che sente come uno sgorgare, ma non c'è rosso, è un po' freddo. Quello lì, bravo. Mentre invece quello accanto è gioioso, le braccia aperte, venite amici, però lui sta là e sta anche tirato indietro, difficile andare incontro a quello lì, vedi? Bene, poi sotto c'è questo essere dell'amicizia, perché non è neanche incarnato, è cosmica sta cosa, bene? Un tesoro, vogliamo dire, va bene? E qui addirittura musicale. Capite bene che non gli ho mica detto io tu fai la nota, tu fai questo e tu fai questo, giusto? Cioè bisogna essere un po' esperti per fare questo lavoro. Bisogna avere tanto lavorato noi non su di noi è così brutto, aver provato a dipingere, seriamente, a macinare sto colore che non viene, quel punto di verde, quel punto di rosso, perché noi abbiamo tutti dei punti di forza e dei punti su cui dobbiamo lavorare, tutti, se no non saremo qua sulla Terra, perché il senso di essere sulla Terra è di fare un passetto avanti, no? Bene? Ecco, e poi c'è che lui dice, io nel mio pianeta, mamma mia, sono andato via ma ho dovuto prima spazzare tutto perché se mi resta un seme di baobab, con tre mi prende tutto il mio pianeta e lo distrugge. Cioè, esistono degli esseri così potenti sul suo pianeta, è tutto metaforico, è chiaro, no? Ecco, così potenti che sono in grado di, anche vegetali, non animali, quindi, di distruggerti, toglierti lo spazio, toglierti lo spazio, bene? Allora, prima di andare via, lui ha spazzato bene il suo pianeta, perché sapeva che potevano esserci dei semi di baobab, che nel tempo che lui andava via avrebbe potuto prenderli tutto. Questi qui, queste persone, hanno veramente sentito come essenziale non disegnare il baobab, ma il pericolo. Qualcuno l'ha tradotto con un'immagine puntuale di un albero, ma qualcuno no. Per esempio questo qui, ecco, quello lì, è il pericolo che viene dai colori, l'ha intitolato. E ha ragione, perché il colore può essere anche destabilizzante. Per una persona che ha un periodo di vita un po' scuro, se tu le metti davanti un caleidoscopio di colori, si infastidisce primo, e poi gli può dare fastidio forte, e puoi avvertirlo anche come un pericolo. Perché nella penombra, nel grigio, c'è anche un senso di quiete. adesso che faccio un po' di più la casalinga, comincio a abituarmi a stare in casa, cosa che non sapevo neanche come era fatta a casa mia fino a 2 anni fa, ecco, e comincio a sentire quel sottile fascino del star lì. Non è brutto, non è brutto. Un guaio è se ci si ferma poi, ecco. Bene, allora il colore come pericolo, dimmi. Io guardo il pericolo rafforzato dell'ultima immagine dalla serpe, non gli bastava il mauro. No, e in più c'è anche il sole dentro la terra. Allora, questa è una persona che ha voluto dire quanto è tutti i pericoli che vede. Il sole che si ritira, un mondo animale pericoloso, delle radici esagerate che comunque già lì c'è dentro già anche il pianeta, e un albero che il verde non ce l'ha, è secchino, è un po' sfittico. Questa persona ha espresso molto che cos'è pericolo dal suo punto di vista. Vai. Ecco, questo è anche strepitoso. E ho lavorato con più persone, allora qui, e guarda quel baobab lassù, quanto è bello. Cioè, chi è? Qualcuno è pittore qua dentro, lo sento, qualcuno c'è che se ne intende. Ragazzi, è strepitoso! Se tu lo metti in un museo, attaccato con la sua bella cornicetta, e gli metti anonimo veneziano, ecco, no, guarda! Allora, un albero fatto di colori dove gli cadono foglie gialle, di colore ancora. Bene, e questo qui sotto, questo mondo d'ombra, lavorare in quest'ombra è anche molto interessante, no? Quella che dicevo, il grigio piace, ma perché no, ma stiamo lì, ma che te frega, ma dai, faccio un tè, faccio doppio tè, e tiri, ecco. Però, perché? Perché non voglio andare fuori, perché fuori, vedi queste punte, magari, può essere pericolose. Vedi qui le radici come hanno preso tutto. Quelle hanno preso tutto, sì. Ecco, poi c'è che, insomma, lui racconta il suo viaggio, e nel suo viaggio di discesa sulla Terra ha incontrato diversi altri mondi. Uno di questi era un mondo dove era così piccolo che in un giorno, facendoci il giro, potevi fare fino a 42 tramonti in un giorno, potevi vederti. A me mi piace il tramonto, diceva, no? Allora va bene, dipingiamo il tramonto. Ecco. Il primo, un sole che tramonta dall'alto. Pur tuttavia è meraviglioso. E questo qui con quei raggi di fil de ferro, così duri. Così, ma siccome è così importante il mondo di colori che attraversano, ci vuole tutta quella forza. Questa persona vive tutta quella intensità di forze. Capite che cosa vuol dire una sofferenza nella mente? Cioè, questi ci fanno un dono. Io per quello che sono andata avanti, questo ho fatto, tenuto duro, insomma, perché fosse realizzato, perché così tutti vedono. Sai quando c'è quell'amica pesante che palle, che insomma mi racconta sempre quella, e che sarà un po' depressa, evidentemente, no? Ecco, capisci come? Allora, quando tu la capisci, puoi dirle quella parola che la muove. È come ricevere anche, scusa, ricevere anche, parlo per me, la parola giusta magari ogni tanto. Perché noi siamo un'umanità, noi si dà e si riceve, San Francesco aveva ragione, è dando che si riceve. Io ho ricevuto tantissimo. Anche da un punto di vista pittorico, certe idee mi sono venute proprio da loro, solo che lì vengono espresse così, in un modo diretto e spontaneo, e noi, razionalissimi, dobbiamo cavarci l'anima per riuscire a raggiungere quell'idea, per esempio, di quel baobab là o di quel tramonto là. Fior di pittori sono impazziti su queste cose, Van Gogh, perché si è spremuto fino all'ultima goccia per raggiungere quelle cose. Va bene, allora la famosa rosa, sapete la storia, lui aveva un fiore sul suo pianeta che era un po' birichino, e questo fiore non si lasciava, voleva essere sempre accudito, al centro delle attenzioni, ne aveva sempre una, finché si era stufato e ha detto vado via, lui, e aveva preso il volo e se ne era andato. Sta rosa, ecco, ditemi voi queste rose se sono all'altezza di essere rose, chiamate rose. Quella lì con quei 1000 piedi, dunque lui dice che questa rosa ha 4 spine, 4, adesso gli antroposofi qui capirebbero, ma insomma ha 4 spine, no? E lui dice, ma cosa te ne sono milioni di anni, fa questa osservazione, guarda, sono milioni di anni che la rosa fa le spine, arriva sempre una pecora e se la mangia. Perché la rosa si ostina a mettere fuori le spine se non le servono a niente? Allora io ho detto 4 spine per stare un po' sul semplice, no? Quello ti ha fatto 1000 piedi a doppio di qua e di là, no? E c'è tutto questo spinamento, ma non sono dure. Quello lì, sono dure, no? Non pungono, dai che non pungono. Bene? Questo vasetto, allora poi sono 3. Bene? Va bene, e questo è un bocciolo. È un bocciolo, quando sboccia questa rosa? Una donna di 50 anni dovrebbe poter fare una rosa, non essere ancora un bocciolo. E poi ho detto facciamo la rosa bianca. Allora con il bianco, il nero, il verde, il rosa. Una mi ha detto mi dai il celeste? Perché il celeste? Guarda che candore che viene con l'azzurro. E anche quest'altra, questa veramente piena di spine nel petalo. Questa persona soffre molto, sente aghi, li sente anche fisicamente. Ok. Il re, un altro pianeta, un re. È un re perché lui regna, perché dà sempre ordini ragionevoli e pertanto è sempre obbedito. È geniale. Essere obbediti grazie al fatto di dare ordini ragionevoli, non giusti, ragionevoli. Bene, e allora c'è questo grande manto che lui ha, che scende e copre tutto il pianeta. Allora, guarda come è espresso questo manto. Là è un torace, quasi, no? Una cassa toracica. Visto? Sì. E compaiono queste lacrime, perché a me sembrano lacrime, questi puntolini neri, vedi? Lì e lì nella bocca. Questo invece la sapeva e allora dice no, ma poi ci sono le farfalle che portano, e è già andato avanti e va bene, ok. È stato fatto in 2 volte, ecco, e questo è altre persone, dove uno lo raffigura, io trovo quello là su in cima molto bello, perché non è buono sto re. Al fondo non è magnanimo, no? È ragionevole, è furbo. Sì, sono tutti comportamenti umani questi, no? Che abbiamo noi anche. Bene. Questa che ci scrive amore è una signora tedesca, tedeschissima, scritto in italiano, spiace. Ma fallo capire a te. Può essere. E poi questa qui sotto, una persona, adesso non mi ricordo, ma insomma una persona che ha fatto prima questa scala di Giacobbe, un po' così, no? Cioè, strano, no? È il re, è sempre il re, eh? Stessa tavolo, stesso tutti uguali. Mi sembrava un po' strano, ho detto magari ci aveva un suo ricordo e ha voluto fare sta roba. Abbiamo ancora 5 minuti di tempo, vuoi rifarlo? Sì. L'ha rifatto, mi ha fatto il piacere di farlo tondo, ma sempre uguale però, no? Quindi veramente quello è il suo re. questi scalini, questo ascendere, questo andare in alto, ha sentito, no? Bellissimo. Beh. Ecco, e poi c'è la famosa serpe. La serpe, che è questo animale che incontra nel deserto, che sarà quello che gli darà la possibilità di ritornare nel suo pianeta con un morso definitivo. Ma all'inizio è presentata come un qualcosa, una serpe che va, che parla, che si arrotola, che si avvinghia. È la serpe, la serpe. Allora, guarda come viene espressa questa serpe, che ha in sé la possibilità di morte e comunque di pericolo, no? Poi nel deserto sta lì, gira, parla, consiglia, vai di qua, vai di là, gli dice, no? Allora, lassù c'è quella che guarda il sole, guarda la prima lì. La serpe è praticamente trasparente, ma la lingua è rosso intenso, marroncino, e guarda il sole che è fuori, non ha raggi, è fermo, è bloccato. Questo rapporto, no? Quest'altra che sente queste sbarre, come... non voglio dire, perché vi metto dei preconcetti. Quest'altra è così ansiata, no? Proprio tonda. Quella che sta nella terra, azzurra, bellissima, guarda che bella che è quella lì. Infida. Quasi una vipera è quella lì, bastarda. È piccola, cattiva. Questa è molto più morbida. E quell'altra, il pericolo di questa serpe è dato da nuvolette nere, però è un mondo molto... anche vitale, l'altro è nel deserto, questo è vitale. Bene, non voglio, ecco, poi incontra la volpe che è questa grande protagonista, la volpe che va nel deserto, la volpe che gli insegna tutto, la volpe che dà il concetto di addomesticare. Zemen, una parola che non sapevo, bellissima. Allora, addomesticare, cosa vuol dire addomesticare? E l'altro gli spiega: se tu vuoi farti un amico, è come che gli dai un appuntamento e gli dici: ci vediamo qua domani alle 4. Tu questa sera cominci a pensare a domani. E domani, nel corso delle ore, quando arrivano le 13, fra un'ora incontro il mio amico. Questo atteggiamento di attesa porta a crearsi un legame fra le persone. L'addomesticare. Bene? Allora, la richiesta di essere addomesticata. La richiesta di essere addomesticata. Quando se ti viene un amico che è un amico di un tuo amico, quindi tu lo accogli perché per la proprietà transitiva almeno non è nemico, però è un estraneo brutto, proprio non capisci niente, metti che sia un islandese, non sai niente di lui, come fai? Come fai a entrare in empatia, si dice, come fai a entrare in rapporto, no? Devi creare un modo e un modo, ecco, di volersi, io non devi dire all'altro voglio, no? Voglio conoscerti, voglio stare con te. Allora questo, darsi il tempo, creare un tempo fra i due, non un regalo, non un palmare, un tempo, darsi, donarsi del tempo l'uno all'altro. Ecco, e poi dopo dice, beh, allora la sete, la fontana, cercare, camminano in questo deserto per trovare una fontana, guarda quella lassù, con quelle tre palme, questo pozzo, questo è proprio la samaritana, che quando Gesù va, non so se disturbo qualcuno, se faccio dei riferimenti di questo tipo, ma insomma nel Vangelo la figura della samaritana è fondamentale. mi sembra, e che dice, che le dice, cercare l'acqua che ti disseterà sé. Sì, ma lei dice donna, e lei gli dice io non ho marito, quella era la parola chiave, ecco, e di questa solitudine anche, no? E di questa unicità, va bene, e poi acqua espressa in altro modo, vabbè, lo vedete, dai. Ecco, e poi allora siamo alla fine, praticamente si è capito che è passato un anno, si sta ritornando nello stesso punto di partenza, nello stesso giorno, nello stesso istante, quindi si è creato un tempo che è dato dalle stagioni, ma di solito quando uno sta male le stagioni proprio gli passano che non si accorge neanche, le ore del giorno diventa più facile. Quindi ho detto le ore del giorno, ed è bellissimo, a me piace tanto questo lavoro, vedere per esempio il primo, che è un altro ragazzo, ecco, come sono separate, no? Come sono non vissute, chi vive in quei spazi lì dove non c'è colore? Bene? Però sta bene quel ragazzo adesso, eh? È un ragazzo questo qua. Sì. Ecco, e siamo arrivati. Il ritorno. Allora la serpe lo pungerà in modo che lui possa, il cielo è lo identico a quando è venuto giù, per cui il cielo sarà identico perché è passato un anno, è lo stesso il cielo di quando è sceso, e quindi potrà ritornare di ritorno. E qui è il ritorno. Allora, questo primo lavoro... adesso facciamo facciamo la performance. Allora, osservatelo bene questo qui. Bene, lo vedete? Boh. Torniamo al primo. Ecco, è quello lì. È la stessa persona. Allora, vedete? Questo è, guarda, questo non ci sono più, non sai più dire niente. Andiamo via, caffè, ciao. Perché si capisce quanto ha elaborato questa persona di contenuto animico. Quanti mezzi toni, quanti nuovi colori ha trovato dentro di sé, perché non te li trovi sul pennello né sul piattino, solo dentro di te, perché i colori, io metto due piattini per ogni colore per sei persone, quindi devono stare attenti a non sporcarlo, perché se tu me lo sporchi io poi non lo trovo, e viceversa. Il semen, da domesticare, a domesticarsi, quindi fare questa ginnastica dell'anima, osservazione, però lasciare che il sentimento fluisca. Quindi là, molto trattenuto, ma bravino, tutto per benino, tutto composto, e poi l'ultimo, dopo sei mesi, ma dipinge ancora, questa persona, quindi è andato ancora più avanti, ha fatto dei discreti, ha preso delle decisioni nella sua vita anche. Ecco, vedete? Non ce li aveva, vedi che c'è il viola, vedi che c'è l'arancio, vedi quel verde. Prima avevamo giallo, rosso, blu e giallo strettino, messo a falce, tagliente, rigido. Il giallo, se è questo mondo di luce, vogliamo chiamare nell'uomo, cos'è la luce? Il pensare. Perché quando ho capito una cosa mi si è accesa la lampadina, si dice, no? Ecco, guarda come è utilizzato per andare a esplorare posti e spazi, ok? A questo punto è finito. A questo punto lui ritorna, lui è andato, però c'è ancora un lavoro. Ecco, il cielo. Allora, è bello che dice, ma insomma mi dispiace che vai così, e dice, ti lascio le stelle, perché adesso tu sai che io torno, c'è il mio fiore, e insomma dai, ho capito che è un po' birichino, ma gli voglio bene uguale, e allora e sarò contento, quindi tu sai che ti lascio le stelle che sanno ridere, quando guarderai il cielo, pensa che io sono là che rido. E allora questo cielo che ride, questo notturno, alcuni l'hanno fatto proprio un notturno, alcuni ci hanno dovuto mettere l'arcobaleno perché se no non si capisce. E anche il sole. sole, luna. La luna. Pien di gente sto cielo. Vedi come è diventato ricco, no? Questo è sempre il nostro autore primo, mentre invece la secondo quadro lì è un'altra persona che è venuta una volta due, però molto capace e ha ottenuto un bellissimo lavoro, no? Ma non era così inserita nella storia degli altri. Bene, e poi allora ecco succede. Vabbè, mettiamo questo che è l'ultimo. Questo non è un lavoro del piccolo che si riferisce al piccolo principe. No, non c'è. No, si è in... Vabbè, è lo stesso. E, il rosso. Allora, dal rosso, che è il mondo della vita, sangue, vita, allora dal rosso io nel rosso trovo facilmente vita. Se io dipingo verde non mi viene l'immagine umana, perché resto in un nel, sempre vita ma nel vegetale. Vita incarnata umana, devo partire dal rosso. E questo l'avevo fatto in un'altra occasione, ma l'ho messo come pseudo gli autori, perché vi garantisco che sono, nessuno ha fatto l'autoritratto chiaramente, figurati se uno fa uno così, uno così, uno così, ma conoscendo le persone sono molto vicini all'autore che li ha fatti. Quindi guardarsi negli occhi, sì, quando io mi guardo nello specchio e mi osservo e dico porca miseria, passati anni Marisa, ok, bene, e quindi ho un rimando in me. Quindi questo trovo che anche dal punto di vista terapeutico insomma sia un buon risultato. Ecco. Abbiamo concluso? Abbiamo concluso. Ciao. Grazie di questo viaggio alla ricerca del bello. Sì. Perché il bello non ci basta mai. Vero. Come dicevamo l'altro giorno, non ci basta che una sedia sia comoda, la vogliamo anche bella, anche se ci si può stare seduti bene lo stesso. E questa è stata una ricerca che ognuno fa dentro di sé e attorno a sé. Bravo, è proprio così, è proprio così. Se volete qualche piccola cosa, buono, e se no... Grazie. È stato bello così. Grazie. Bene? Bene.